quelle micro lampadine maledette a 12 volt. E allora l'ho piazzata. Poi, sì, la prossima volta LED resistenza, perché è di dimensioni più umane, capito, i terminali. Va bene, non vuoi un'anima, non tu. No, già sono entrata stasera un po'. Stavo dicendo che... Ma però la pipì è dura, no? Io ce l'ho... Sono apparecchi dove ce l'hanno tanti anni, questo qua ce l'ha tanti anni, già 10 anni non ha mai bruciato lampadina, ha sempre funzionato. Però sai, la sfiga ci vede benissimo, e poi queste lampadine magari le hanno fatte ancora più risicate, di qualità magari inferiore a quelle di 30 anni fa che duravano una vita, 30-40 anni fa, e funzionano tuttora, le stesse lampadine. Ho controllato la tensione che arriva alla lampadina e sovratensioni non ce ne sono, ho detto magari si brucia per sovratensione, invece no, è tutto regolare, boh, va bene. Pure quelle si invecchiano. E questo adesso me lo collaudo, se vorrà un po' di propagazione, questo c'ha canali alti, bassi e basta. I watt sono sempre 4, guarda i picchi. Sì, questo sale molto di più, ma questo c'ha il trimmer aperto, Antu. Il trimmer dell'M è aperto. L'altro 3900 blu non è così aperto, è quello di fabbrica, omologato, capito? Qua c'è un bel forte, qua, qua c'è 925, c'è un bel forte di segnale. I polismitter sono sempre diversi, cioè attacco l'altro e è diverso anche l'altro, capito? Non sono proprio precisi. E poi non servono a niente questi smitter di baracchini, l'unico è il K a lancette, con la lancette, puoi dare controlli grosso modo veritieri. Vabbè Anto, grazie al controllo. Dopo me lo pulisco perché è tutto pieno di dittate, come l'ho aperto, eccetera. E le cromature le voglio lucide, luccicanti. Ok, già ci sentiamo. Saluti a chi ha l'ascolto anche. Pignolo. Eccolo già. Sì, già, perché è tutto dittate, come l'ho aperto. Però niente meno, una posizione più stronza allo smitta non gliela potevano mettere. E vabbè. Buonasera, comunque. Stavo ascoltando. Mentre mi ascoltavo le carte che avevo fatto, sto ascoltando anche il Giuliano. KK. Che apparecchio totale? Come già? Che apparecchio hai aperto? Il 3009. Quello col display rosso, con i LED rossi. C'è la lampadina fulminata per la seconda volta. E quindi alla prossima fois metterò quello che tutti hanno consigliato, che per non andare a fusarlo stasera era me. Lampadina, cioè il LED bianco e la resistenza. Ciao già! Ciao! Sì, in effetti è così, conviene mettere il LED, così non si fulminano. O si fulminano molti là, durano molto di più là. E perché come la lampadina? Che posizione è messa? Io non l'ho mai aperto, io ce l'ho 3009 come il tuo, però non l'ho mai aperto. Allora, la lampadina nello smitter del 3009 entra di lato, dal lato sinistro. Dal lato sinistro c'è un'apertura ed entra da lì. E che altro dire? Cioè, devi smontare il frontalino, perché sennò non... i cavi sono corti, il cavo sia dello smitter in sé che dell'illuminazione, no? E devi smontare il frontalino, togli le manopole, tu poi ne escono tutte quelle guarnizioncine alla base delle manopole, quelle bianche semitrasparenti che servono per proteggere la polvere, poi ne escono i feltrini che sono sotto le levette, i feltrini antipolvere. Ma le bestemmie che ho tirato già, perché non saldava, non... lo sai come ci ho le mani io, non riuscivo a saldare, mi saltavano i nervi. Mai non saldava. Ma non c'ho flussante, non c'ho niente, tutto. Poi non riuscivo, non ho più quella quella basetta pesante che con la pinzetta ti teneva i componenti fermi in modo da saldarli, no, quella con le due pinzette, la lente, tutto sparito, tutto malore è andato. Vabbè, comunque è fatta, dai. Superstar 3009 trimmer, tutta a manetta, questo, e questo non è l'omologato. K-K, non l'abbiamo omologato. E praticamente così deve essere che ha fatto colpo. Dimmi già. Ho detto tua zia avrà fatto il colpo quando stava facendo pulizia della padrona. Può darsi pure, me, non mi stupirei. Va bene, signori, io vi devo necessariamente lasciare perché devo cucinare, perché non ho fatto niente. Dai, riprendete, ci sentiamo. Vedete per me. Ciao, ci sentiamo, alla prossima. Ciao Marco. Avete parlato in due, non si è capito né l'uno né l'altro. Vai Gianni. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo. Buona serata, buona carica. Stavo salutando a Marco, stavo salutando. E beh, già. Vabbè, non stavamo salutando in due. Anch'io lo stavo salutando. Perché gli arrivo forte da qua un po'. E quindi ci siamo sovramodulati, capito? Cavagata. Va bene comunque, dai, va bene. E allora tu, chi te mi conta, sa? Adesso non esco e faccio sta consegna. Dove vai, ripeto? Non me lo ricordo. Ma in qualche locca? E anch'io forse stanotte esco. Cosa già? Che probabilmente esco anch'io stanotte. Ti lascio, che adesso è troppo tutto per uscire. Ok, ce la risentiamo, dai. Ciao. Spacco l'antenna, ti spacco. Chi è? Io adesso faccio lì e ti spacco l'antenna. C'ho la carabina. Non vedi che sono terrorioso? C'ho la carabina e ho capito come è pronto. Ehi, sono cane lupo io. Adesso è acceso tutto. No, in questo momento, solo che sono via Pascoli, adesso sono stato alle zone alte per poter sentire bene, se no gli altri non mi sentono. Ma basta che te ne vai a San Francesco, che ti lo fanno in parte, capisci? No, il problema è che ieri ci sono riuscito, ieri anche l'altro ieri sono riuscito a fare campagna, mi sono messo lì, sono un rivedo, sono in casa. No, io mi mettevo in quel parcheggio delle querce, quello di fronte alle querce, quel parcheggio che c'è, mi mettevo lì. Lì ho fatto anche un 10 con l'Inghilterra davanti. Passa qua che ti do la Glock, così non tiri. Passa qua che ci sono la Glock, così non temi, Bruno. Non entra nessuno adesso, prima che era sopravvodulato, tu non entra. Oh, Bruno, lì nel parcheggio delle due, ci rimettevo. Ho detto, passa qua che ti do la Glock, così non temi. No, Natalia, ma mi devi prestare la cucina a bomba. Venite, vi do tutto. C'ho anche una carabina e un'altra pistola. Io c'ho la picchina alla grossa. Stai dimenticando che sono stato una vita a tirare, io sono un tiratore, il tiratore nazionale. Per cui non c'è problema per me, lo guarda. Già c'è un bello carico in chiave gara. E anche la Tavido comunque va a tirare segno e ci va la vita. Io ho fatto una stessa. Una vita poi avrò problemi al timpano, adesso sto andando su. Ma c'hai il programma ascolti? Sì, qualcosa del genere, dipende dal lavoro che fai. Io sono stato tutti anni. E vabbè. Vabbè, comunque io sto scherzando, non me la chiudo le armi, non mi piace. Sì, io ero andato così per scherzo una ventina d'anni fa. No, per scherzo, proprio perché temevo le armi, temevo, non avevo cosa fosse, mi volevo levare questa paura, perché ripeto, a me se faceva un carabiniere, un poliziotto, un danno vicino, mi dava proprio fastidio. E non sbagliavo perché molta gente le armi non le sa usare. E allora sono andato, ho fatto un po' di esperienza, ho preso il porto d'armi, appunto quello. E niente, giocando, sono stato. sacco di anni, perché poi agli amici tutti e situazioni lì e dare la mano ai commissari, anche tu fai parte di una certa scienza, diciamo che è un suo esercizio. Poi va bene. E tuttora vai o è presto? E poco sto andando, ho avuto un problema al timpano, che poi forse neanche si sa niente, molte volte sono in cuffia. Quando sei lì, la capisco, poi sono andato alle scoppie, via il colonnello, ma tu via il commissario, quello che insomma mi aveva preparato al tutto. E non siamo andati su. Comincia ad avere problemi all'udito, mollare. Vabbè, avanti la tagliata. Sì, dai, rimango in ascolto io che sto facendo cosa. Io c'ho la piccoliola grossa. Giusta intro. No, se faccio comprare la salute della lascia, sono da voi. Con il cazzo ne sci una, no? E avanti, con buio. Buonasera a tutti. Cosa avete fatto delle pistole adesso? Aspettate la 15 di giorni e poi le usate. Come adesso c'è la guerra, se siamo richiamati, dobbiamo andare. Io mi ho già comprato tutti da traffico, non posso andare disarmato. Lo fai il tempo! Io mi ho già fatto il codigali. Dobbiamo andare in madre, chiedimi. Capito? Tutti da traffico, minimo. Ma quando arrivare qui sono già senza benzina quelli. Ah, c'è anche la benzina, se non metti di mano buona, anche se è abbastanza, sembra troppo. Oh, Iulia. Dove stai andando tu in macchina? Dove altro sei andato? Qua vicino? Salendo. Filighiddu? Ah, quindi c'è la parte opposta, sì. No, io sto andando... Io perlomeno conosco la zona, quella salendo su più avanti di casa mia, poi devi, quando in pratica arrivi al campetto di calcio, giri e lì c'è un punto alla, a metà strada che in pratica vedi tutto, vedi la zona di Alghero, la zona del monte, Sosso, Segno, ti metti lì vicino a quella villetta dove ci sono le tre cancelli in legno, ti muovi in chibi e sei a posto. Ma già non sono io in quella zona, io sai dove? Ieri sono salito su, dopo le queste, salendo, scende poi sulle acque, però quando si è al buio lì sono andato verso una specie di orizzonte, con delle case vicino, mi sono con le palle perché poi c'era gente da destinata, stava stavano passando, che non si faccia, non sono anche andato, perché se no si parlava. Il salto è su vicino a Mario, allora a Alberghiero, tanto quella scuola è chiusa a quest'ora, ti metti davanti al cancello e parli da lì. Allora che non te sali su, dove c'è il campetto di calcio rimane lì, è l'unico punto alto. C'è qualche altro che deve parlare? Andiamo? E allora io vi lascio che devo fare una cosa, va, ci sentiamo. Ciao ragazzi, statevi tutti bene e non continuo a questione. E ciao, Gianni, ci sentiamo. Vediamo se c'è qualche altro che vuole entrare, se non mi sento. Avvicinati al microfono. Non è che questo microfono, questo baracchino è un casotto, guarda. Sono incazzato perché ho comprato un amplificato di quelli fa male, no? Me l'hanno piazzato e faceva fischi e fiasche ed ho tolto. Perché questo è un baracchino. Quello Zodiac meno. Quello nuovo, diciamo così, che ho comprato da poco, quello ce l'ho a casa, lui a casa, questo vengo buttato in macchina. Però il microfono è basso, come cosa, no? Ma che tu di a che? 50-24, 50-26, cos'è? Ho preso tutta, guarda che se 534 ma se 50, adesso non mi ricordo 534 54, boh, senta, se non mi ricordo adesso bene, comunque c'è LED rossi, c'è nero con le LED rossi 5036, può essere? Sì, può essere, c'è LED rossi, c'è, e c'è anche l'FM. Beh, fischi a casa, mi si è abbassato il fischi. L'unico apparecchio che si può modificare è quello. Puoi sollevare l'LC e aumentare il watt. Guarda, guarda, questo me l'ha fatto un amico. Poi, parlando con un altro amico di cui si dà frequenza, di tirare, vediamo che metto un quadro, che sono là. Ho comprato perché poi quando sollevavo lasciava al minimo e mi sentivano bene, quando sollevavo faceva fischi e fiaschi, e allora a quel punto ho messo via, peccato perché magari migliorava un po' la radio, dai. Via, si può regolare comunque, c'è l'LC dentro, basta abbassarlo appena appena, non fischia più, in pratica ti sentivi la modulazione dell'autoparlante. Ma tutti mi rompevano le balle, basta, fai fischi, fai fiasco, ma non ti contorto. Però c'ho anche un altro baracchino Intec, quello è buono, è nuovo diciamo, ma esatto. L'ho provato a casa, per cui ho intenzione di fare una cosa io, col microfono, provarlo a sistemare sull'altro baracchino, cioè l'ho provato. È anche di fisica, per cui vorrei con il microfono più affaticato metterlo magari sull'altro baracchino che è nuovo. Ehi, aspetta un secondo, due minuti. Cazzo, anche la frequenza che vuol dire, aspetta, devo pigliare l'altro telefono, cazzo, mamma mia. Ehi, aspetta. Pronto? Ehi, a secondo, due minuti mi prendo. Cava, cava. Perché stavo risolvendo una cosa qua a casa urgente. Hai fatto bene, almeno sei tranquillo. Aspetta che c'era che adesso mi viene il nome di voi in mente, che in macchina va. Sono tutta la lingua, quando adesso mi viene in mente, sta salendo in zona alta. Ati! Ok, sto facendo un attimino di silenzio perché devo andare a cercare una persona, ma siamo là. Va bene, siamo qua, non c'è problema. Avanti, Daniel, io sto chiamando a Fabietto, se mi risponde. Che merda, su canale 6. Aspetta un secondo, che qua c'è un po' di cose che non mi tornano. E va bene, dai. C'è mia moglie che al telefono, cazzo, mi sta prendendo il telefono. Le spurie qua e tutto il QR. Cazzo, non mi vedi che sei al telefono, tua moglie. Vai in campo, bello. Cosa tu hai? Non ti senti al telefono tua moglie? No, che lei ha il telefono, però siccome questo prende tutte le spurie del QRA e quindi volevo regolare una cosa, invece non posso farla. Cosa, Tore? Grava, grava, grava, grava. Oh, boh, ci sei, sì. Sempre. sì. Perfetto, ascolta, dove ti trovi a Papatango? Centro o verso il porto? Verso il porto sono. Perfetto, dai, meglio così. Quindi sei verso l'interno, dai. Sì, sì, e tu da dove stai copiando? Guarda, io qua sono zona Via d'Italia Alta, dai, dopo il pronto soccorso verso l'uscita di Sassari. Sei vicino in linea d'aria? Sì. In linea d'aria siamo vicini, però la situazione della mia antenna è una serie di circostanze, diciamo che va, non bene, no, di più. Ah, di più, non è una verticale. Sì, questa è una verticale, però è un quarto d'onda, dai, questa è una grand plane. Provvisoria, però guarda, nelle condizioni in cui ti sto arrivando va più che bene. Sì, 95 radio specifico. Meglio così, dai. Aspetta che proviamo con un altro apparecchio a vedere cosa dice. Sì, tanto saluta Mario. Di quello dell'altro, mi pare strana la cosa. Lui adesso che mi ha detto che c'era il per, allora ho capito, ecco perché c'è la differenza da 4 a 5 e mezzo, quasi 6. Ciao, anche a te, per sentito. Perfetto, numero uno. Magari, numero uno. L'antenna devo cambiare, appena mi cambio l'antenna vedrà la scena. Cioè l'antenna del palo più che altro, perché non sta facendo basta. Sta lavorando male l'antenna, se no già sarei stato molto più forte di adesso, come segnale. C'ho stazionario 1 e 6. Adesso appena migliora il tempo, se non succede la guerra, mi metto il palo telescopico, come di quelli grossi, e la mantova la piazzo lì, così almeno non me ne vado a fare ogni volta. Mettimi la scala, a stare con un fratello in mano, sembro aspettare che cambi il vento. La gente, io devo comprarmi la 98 io, quella Silvio Tornado che ha 7 metri e 2 di radiali e 7 metri di stilo, una cosa del genere, insomma. Voglio provare quella, la mantova la smonto, la pulisco bene e la conservo, la mantova turbo. E dalle? E dalle sì. Buonasera a tutti. Antonè, te l'ho già detto, lì è scritto scettiometri sono riferiti al radiatore, non ai radiali. Antenna di antenna verticale con radiali, davanti, virgola, di 7 metri, non i radiali, l'antenna. Non hanno senso radiali 7 metri. Io la Tornado, se io ti mando il manuale di installazione, i radiali sono tipo i soliti, non so se hanno 2 metri e mezzo, 2,70. Non ha senso radiare a 7 metri. Ti mando la foto, vedi, eh? E ti faccio schiacciare, perché ce l'ho. È duro, mi. È duro. No, sono duro, no, non ti preoccupare, ce l'ho duro. Sì, ma Antonio, l'ho vista la foto, allora in prospettiva col grandangolo si vedono questi radialoni enormi allo stilo che si alza verso l'alto sottile, ma se radiali a 7 metri non se ne sono mai visti su una antenna per gli 11 metri e non avrebbe senso. Qui la Tornado, cioè tu vai sul sito Sirio, scarica il manuale di installazione della Tornado, leggiti la lunghezza dei radiali. Non è che c'è il manuale, la conosco già con l'antenna. E vabbè, per quello che costa me la ordino, cazzato, cioè a pagare 160 euro non la lascio la gara, la uso per quello che, come funziona e va fa un culo, poi se c'ha 7 metri, se 2 metri sta 5 radiali, ben venga, basta che funzioni bene, tutto lì. Che non sia come la Matoma Turbo, diciamo, sta una piastrina sotto e con questi radiali pulsato girisce, eccetera, eccetera. Quindi, siccome devo cambiare il palo, dato che ci sono, cambio anche l'antenna. Cosa lascio l'antenna a lui, che cazzo con palo nuovo, sarebbe inutile. Anche perché ripiazzando non dovrei salire nuovo sopra e scendere in terra, nel caso la bobina dovrebbe essere senz'altro ossidata, quindi dovevo smontarla tutta la Matoma Turbo, rimettere la bobina a nuovo e rifare tutto quello che ho fatto un sacco di tempo fa, in modo che l'antenna esca bene. C'è stazionaria, quindi se c'è stazionaria qualche problema c'è senz'altro. Quando sta funzionando quella bobinetta in rame che c'è come la Matoma 5, quella esterna, quella fina, se lo carico, cazzo, io salgo la 5, quindi preferisco non bruciarmi lineare, tanto già costano poco i finali, quindi la IMF 422 già, quelli chiusi costano 36 euro, invece gli altri vengono 66 euro l'uno, quindi sono sempre 424, 240 euro, a me la bozza. Sì, dimmi. Attacca il valvolo che sei fatto in fungo. No, posso attaccare, c'ho solo mentre un via da 100 watt, me. Vecchio, grazie a Dio, quello già vecchio. Quello da 600 l'ho portato a riparare, a cambiare i finali. Solo che ci vuole mezzo patrimonio, adesso sono indeciso se farmi arrivare i finali dalla Cina, gli MR422 costano 33 euro, oppure quelli, gli altri originali che vengono 60 euro, 67 euro l'uno. Ma non avevi 2002? Quello l'ho dato, l'avevo regalato, l'ho dato al padrone, hai capito? Poi lui doveva fare uno scambio con un Saturnecco e penso l'abbia fatto, qualcuno l'ha trovato a fare scambio. Va bene, là, fai girare, ok? Ciao, ciao. Ehi, ciao, ciao. Colino. Sono i fornelli, scusate, sono dovuto correre a girare la roba. Sì, Antonè, poi per le recensioni che ho letto, attenzione alla Tornado, perché il punto debole è quell'isolatore di plastica che c'è al di sotto della bobina, no, la bobina è in aria, bella esterna, grande, però quell'isolatore, vabbè, loro dicono vetroresina, però non è dei migliori, siccome l'antenna è economica, quella Tornado, non è di quelle top ammiraglie, se si spacca lì col vento. Chi l'ha avuta, alcuni li si è già spaccata, leggendo forum CB Radio Motori, tu sei molto in alto, conta che sei molto o molto in alto. Quindi vedi, gira, resiste più questa perché c'ha quella staffa, hai visto, che tiene praticamente l'antenna dal basso, in basso in alto, no, quella staffa fatta a U. E praticamente l'isolatore che c'è in mezzo, dove c'è la bobina volta, non si romperà mai, perché con la stoffa te lo tiene integro in un pezzo unico, quello della Energy, capito? Dai, le vuoi dei fornelli, riprendi Natalì che sono, andai e torna, dai, vai Natalino. Ciao, ciao, la riprendo io, dai, ciao Natale. Questo qui è li ha aggiustato, c'è un bijou questo. C'è qualcuno che sta provando, forse ha il volume a zero, che sia Daniele. Daniele, ci sei? Ehi, sono io, ma non sto uscendo questa radio di nuovo, lascia una scena. No, perché a momenti vedevo portante come muta, boh, prima, non adesso, prima, Ecco, qualcuno qua non sta uscendo, eccetera. Ehi, Antonio, io sto usando l'altro 3009, l'ho ripristinato. C'è la lampadina bruciata, l'ho cambiata, bestemmiando naturalmente. Si è sceso tutto, il nome, il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Riprendi Natalia. Guarda adesso, sto uscendo, non sto più uscendo adesso. No, non sto uscendo, Popò, è sceso un altro sinco per questa radio, No, già ti sento io, stai uscendo bene, cosa non stai uscendo? Adesso sì! Ma le volte lo speaker sale, scende e mi ha tutto dal... come si chiama? Dall'ospito qua, è fatto quello che non può uscire, perché non ha sofferto come ci ho detto che ci accendono. Adesso sono andato a posto qua. Prima ci servono due lettere, adesso mette la manetta, il power. Adesso già sei a posto, ma poco fa io ho sempre visto lo scatto adesso. Aspetta un secondo. Sto funzionando bene, cazzo ti ho messo. E ci vuole una cazzo di mia, lo vedi? Come muove il piale di dietro, è lì, Popò. Lo sto toccando con le dita adesso. Come lo tocchi dopo un po' che stagaci. Guarda che è il tipo del PL, in pratica come lo fa anche a me qui nel Saturnecco. Devi, quando avviti non avvita bene, ti rimane staccato, hai capito? Quindi se devi premere il PL verso l'interno dove c'è il coso, se no sei fottuto, l'ha fatto anche a me, di qua nel Saturnecco. Cioè, quei piedi di fusano non servono a niente, rimangono più lunghi, hai capito? Vorrebbero tagliati, vorrebbero, in modo che stringano bene. Se no ci rimane 4-5 mm di distanza. E quindi tocca, non tocca, tocca, non tocca, capito? No, non sta più andando. Allora vedi? Guarda, che piale si riprende, guarda. Già è quello, cioè, lo fa anche a me, lo sta facendo. In questo barattino qua. Bisogna cambiare il piede, bisogna cambiare. Allora. Sì, ritornato, 5 ottavi. La base, CB2629. Con radiali, lunghezza 7,2 metri. A voi, visto di Z c'è scritto qua. Comunque bobina a 100 non vi ne, c'è solo uno stilo. Adesso quando me l'auto mi arriva, vediamo il pacco se c'è questa carica al 100. E basta. Comunque Vettorese non vi ne, perché cioè in Gardendola non si vede un cazzo, ma comunque a Napoli. prendo questa e per il momento va bene. Poi basta cambiare il tempo di sistemarmi la mappa, poi la rimetto con la scatola, la tengo di riserva, per quello che costa, perché se no c'è la via 27 anni costa 65 euro, io quella e va a far cuffia, leggera, ci tengo con 8 metri di ballo e ce la BQ. Manco un secondo, arrivo subito. Eia. Tony, quella foto non si vede, se vuoi ti mando qualche foto col dettaglio. Bella è bella, mi è anche bella lunga, molto sviluppata in altezza, la bobina è tipo a vista, no? La vedi? Non è male, però boh, cioè alla fine sempre lì si rompono me. Il punto debole è sempre quello. Vabbè. Comunque se il prezzo è buono provala, non lo so, adesso l'inverno passa, torna la bella stagione di nuovo, se la vuoi provare, anche a me piaceva un periodo quell'antenna lì, costa un po' di più di questa, un po' di più, online dicono. Non ho tutto vero, prima c'erano 10 euro di sconto per la spedizione. Quindi adesso vediamo un po' se c'è ancora, perché costava 100, 130, 140, poi l'ho abbassata a 98 e quindi adesso volevo vedere un po' se c'è ancora, me la prendo la prossima settimana, me la ordino, capito, me la faccio dire alla mia nipote, così me la faccio arrivare. Siccome devo cambiare il palo, ho intenzione di metterci il palo telescopico, capito? Questo palo d'acqua è completamente bianco, non fa più massa, è sopra, io lavoro da schianto e sta scendendo la ruggine, quindi la mantova non sta facendo più massa, hai capito? Ecco perché ho un certo lineare la volta, quando la transisto. Ho pompato, se no, 3-4 minuti, diciamo 1-8 stazionale, tac, se ne è sceso da 450 watt, se ne è sceso da 100, tutto un conto. E ho parlato a Vittorio, ho detto, controllato tu, perché io, secondo me, c'è qualche problema finale, mentre dice sì, è bruciato, dice, un finale, mi ha detto, e quindi bisogna cambiare tutti. E siccome costano 60 euro uno, quelli originali, adesso, e invece con le cinesi costano intorno ai 32-34 euro. E quindi un patrimonio, non voglio, cioè, cambiare i finali e usarla neanche 3 minuti e saltarmi tutti i finali, no? Hai capito cos'è il problema? Perché c'è stazionare, c'ho, con la mappa. Quindi devo cambiarli, ma è tutto il cavo, perché c'ho l'RG58 modello vecchio, e senz'altro sarà bianco, di colore, dall'acqua, eccetera, eccetera, quindi faccio tutto di pianto nuovo e lo faccio come ci deve. Dato che ci sono, cambio anche l'antenna, e lui c'è che io metto l'antenna vecchia con questo nuovo, non mi cambierebbe nulla. Quindi metto il palo telescopico, l'ho piatto dove ho messo la bimbanda adesso, tanto già è leggero il palo telescopico, quell'antenna è leggera lo stesso, non pesa 3 kg e mezzo come la mantova, e ci inserisco quella. Tanto per provarla, così ho tutto il tempo per quest'estate qui, smontare la mantova, pulirla bene, cambiare i cavetti, rimetterla a posto e poi la ripiazzerò, capito? Che piazzo i tasselli nuovi, mi faccio mettere i tasselli nuovi quest'estate, quelli grossi, e almeno sono tranquillo, non voglio che arriva il vento di burrasca, cazzo mi stampi tutto in terra, già questo inverno siamo sempre stati a quota 80-100, 80-100, sia a Scirocco sia a Maestrale. E lì è un casino, Antonello, è molto molto in alto. E a proposito di antenne, ma Natalino è sempre in attesa di piazzare quella, no? Natalino, ci sei? Eia, già ci sono. Eia, ma il problema, Giovanni e Bella ne hanno fatto, il problema qual è? Che è necessaria la scala aerea per forza a tutti i costi oppure si può rimediare in altro modo? Sto aspettando che faccia bel tempo, già si rimedia, tutto da fuori faccio, con le scale. Ma scale normali, no? Lunghe, tipo quelle, tipo Enel, come erano le scale dell'Enel? e vuole da 6 metri la scala, devo salire a 6 metri d'altezza e buh, così non accendo quella e poi la salgo da terra telescopicamente, così non devo chiedere più un cazzo a nessuno. Io ho comprato le tappe e tutto quanto, io sto pronto, devo buscarmi del tubo da 40 perché devo fare due cariche per accorciare una certa antenna e mi servono due pezzi da 20 cm di tubo da 40. Mi raccomando Natalie, quando verrà piazzata segui scrupolosamente le istruzioni di montaggio, tipo non mettete in tensione il cavo all'interno della canna, come dice lì, prima tiratelo e poi lasciate un pochino di gioco, che sia morbido, perché sennò poi col vento come piega la canna tira il cavo e spacca tutto. Lo so, è già segnata dove devo mettere le canne, già segnate sono, perché ho già preso le misure e è già pronta a piazzare. Ehi, va bene, così vediamo se si risolve anche parzialmente l'eventuale TV residuo, boh, che lo sa. Vai Antonello. Ma qua non c'è venuto più nessuno. No, ma magari era partito preso me. Che ne so, magari c'avevano qualche portatile. Come ti sentivano parlare dicevano che avevano TV, invece non è vero. Mi ricordo una certa situazione. Che ne so, comunque piazzo quella lì, l'antenna, 4 metri più in alto, la metto, così devo, perché devo piazzare altre due antenne sotto, e più il dipolum devo salire su, c'ho la carrucola, tutto quanto pronto è a piazzare. Metti una cubica, una quadricubica metti. E per lì ci vuole il traliccio, se no già me l'avrei fatta la cubica. In campagna me l'ho fatta la Delta Luz, per i 6 metri avevo fatto, bella, che usciva così bene. Quella era una... dove c'avevi l'altra casa tua lì, e quella era una posizione super, superlativa, Natalie. Porca miseria, vabbè. E c'è ancora sopra 10 metri di palo, c'è il dipolo, multibanda, dopo sopra 12 metri di palo c'è la Mantova 5 che se ne stanno ridendo, più varie altre antenne che ci sono. Ehi, Natalia, io stacco, dai, fate girare, riprendete voi. E io subito me ne vado a vedermi la partita della nazionale, c'è l'Italia, e quindi me la guardo. Rimango un po' in quel Rix, poi me ne passo a guardarmi la partita. Ci sentiamo Marco, ciao Antonella, quel Rix per me. Ah, PS, ogni qualvolta che esco col baracchino in macchina, puntualmente non c'è nessuno, oppure come l'altra mattina, come stavo partendo, tutti stavano chiudendo, che dovevo cucinare, che dovevo uscire, e questa prova comparativa non riesco a farla, infatti l'ho detto a pigliarla in culo, non ne faccio più prova. Bastava telefonare a me e così facevi la prova. No, no, ma c'eri l'altra mattina quando sono partito, c'eri, però anche tu avevi da fare, cioè tutti avevano da fare, chi doveva fare commissioni, comprare roba, chi doveva cucinare, è un orario un po' di mezza mattinata che la gente c'ha da fare, capito? E di sera magari la volta che escono non c'è nessuno, allora va a pigliarla, prima o poi riuscirò a farla, dai. Ok, riprendi Antonello, ciao a tutti. Antonello se n'è già andato, vabbè, là, ciao Marco, alle prossime. Ciao, ciao a tutti, ciao. continua l'alternata. Ma tu sei al tu. Luca! Ciao Sa! Mi senti? Eh certo che ti sento, tu mi senti? Sì! Vabbè, Antonio sta facendo la doccia adesso. Va bene, Sa, va bene, adesso ho qua. Papà! Come stai, Sa? Tutto bene, a parte Antonio, sono per le scatole. E tu Antonio però pugna a faccia. Pronta sì per sabato. Certo. Ok, dai. Siamo anche noi lì sabato. Aiuto! Ti faccio il video e te lo mando dopo. Va bene, ok. Ok, il prezzo è sbagliato. Sì. Mi sa. E oggi cosa hai combinato, Sa? Passeggiata te l'hai fatta? Con questo caldo che fa caldo, oddio. Insomma. Non c'è rato, sono andata. Cosa? A Monserrato sono andata. Ah, ho capito. Caldo c'era? Più che caldo qua. Stava bene alla fermata. Alla fermata del transito va bene. C'è il sole che è qua. Una meraviglia. Vabbè, purtroppo ancora il tempo bello non è arrivato, ma non ci manca molto, E infatti, ma la fermata che siamo arrostiti ieri, ma arrostiti a vero, ogni caldo, alla fermata, non Monserrato, no, alla fermata. Immagino. Siamo andati al circo e via, e poi ci siamo andati a casa. Il sabato, ma venerdì c'è karaoke da Mirko, se volete venire c'è Costanzo, Sanna. Diglielo Antonio, vabbè già dopo già entra. Ha detto capo Antonio. Chiappa di rocci. Lui dove rimane? Al monte? Sì. Ok, da. E Marina come sta? La tua, come si dice, 25 come sta? Sta bene Marina, sta meglio di me. Ok, e tu come stai? Di salute sto parlando. Di salute, sto bene, ogni tanto mi si chiude questo cavolo di naso. Dovrò fare, come ho detto Antonio, un intervento. Quello lo farò a, penso, settembre-ottobre. Cavoli. Poi vabbè, senza contare il dentista, insomma, già ne ho da fare, dai. Già ne ho. Dea! Poi Andrea gli ho dei peluzzi nell'orecchio, si è girata di colpo e gli ho detto mettetelo di orecchio. Poverina, e un po' di sangue gli è uscito dall'orecchio. Poverina! Ma l'orecchio lo volevi mettere? Poverina! Si è girata di colpo, capito? Non ci posso fare. Infatti, da questo cerotto non si bloccava il sangue, non si bloccava, allucinante. Infatti, ero lì per lì, si è portata dal veterinario. E poi alla fine gli ho messo un po' di zucchero, sai che lo zucchero blocca il sangue, sì. Gliel'ho messo e un po'... cioè, gli ha proprio bloccato. No, hai fatto bene, sì, blocca il sangue lo zucchero. cosa gli stai facendo, pupillo, cucciolo? Sto tenendo quel peluzzetto in bastardi che mi esco dalle orecchie. Infatti verso maggio l'ha portato a osare. Ora si fa maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. È tosata. Sì, e vabbè. Purtroppo è successo. Vabbè, da... Già ti perdona. Sì, certo. Vabbè, ma se ne è accorta, Tu pensa, me lo sono presa in braccio. Pensa tu, c'ha un'idea. 53 kg, vabbè. 5 kg e 3 pesa, ma è pesante. Cioè, in braccio è pesantuccia. Come si dice? L'ho portata da Sant'Orso dal parchetto fino a casa di Marina. Poi ci siamo dati il cambio, ma Marina non riuscita a tenerla, insomma, mi sta già un po' facendo arrabbiare. Allora me la sono ripresa io. Comunque una bella passeggiata. Capito. Luca, chiama Antonio. C'è qualcuno? Io, sa, sono io, dimmi tutto. Per sabato abbiamo deciso di non usare la lattuga ma usare i pomodori, ok? Quindi portate i pomodori, più marci. Perché quelli maturi sono duri, quindi... No, non si possono portare queste cose. Io c'ho il fischietto. No, perché molti me l'hanno promesso che si portavano i pomodori, quindi... No, si possono fare queste cose, no. Si possono portare coperchi, di pentole, poi... tromboni, sirene, fischietti, ma no cose pomodori e uova, ma assolutamente no. Tu se ti capita, tirala ad Antonio, non a me. No, tranquillo. Tanto non si possono portare, sa. Ma pure tu deve cantare.